Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Continua l'iniziativa speciale di Smart City dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici e in particolare dei condomini, che a partire da quest'anno godono di un sistema di incentivi potenziato loro dedicato e di cui abbiamo anche parlato in una puntata precedente. Nella puntata di ieri sera invece abbiamo parlato di pompe di calore e dei relativi economics. Vale come sempre la pena ricordare che le pompe di calore sono delle macchine dedicate al riscaldamento degli edifici, che sono capaci di sottrarre calore all'ambiente esterno, anche quando è freddo, e di utilizzarlo per riscaldare una casa. Il loro funzionamento, dopo tutto, è del tutto analogo a quello dei frigoriferi, che sottraggono calore agli alimenti e lo dissipano in cucina. Come abbiamo visto ieri sera, questi apparati permettono un risparmio energetico che, considerando le varie casistiche e gli incentivi esistenti, diciamo appartamento piuttosto che condominio a Milano, piuttosto che a Roma, permette di rientrare nell'investimento in un periodo che varia tra i 2 e i 5 anni, quindi un range molto ampio. Tuttavia, la pompa di calore viene utilizzata quasi sempre in combinazione con altre tecnologie con le quali è in grado di fare gioco di squadra. E questa sera vedremo quali e perché. Sempre con l'aiuto di Lorenzo Croci, ricercatore di RSE, Ricerca Sistema Energetico. Buonasera Croci. Buonasera. Allora, quali sono le tecnologie con cui viene associata spesso la pompa di calore? Sicuramente le più frequenti sono la pompa di calore associata a caldaia a condensazione e la pompa di calore associata a fotovoltaico. Ok, quali sono i criteri, le motivazioni di queste associazioni? L'associazione pompa di calore e caldaia a condensazione, che sono chiamati generalmente impianti ibridi, si ha il vantaggio di utilizzare la caldaia per superare i picchi di richiesta in occasione di temperature rigide. Quindi si ha il vantaggio di contenere sia la taglia della pompa di calore, sia di permettere l'utilizzo dei classici termosifoni che richiedono acqua ad alta temperatura. Ecco, perché ieri abbiamo spiegato che le pompe di calore soffrono, diciamo, quando devono produrre acqua molto calda, per esempio. Esattamente come un frigorifero, se lo tenete in un ambiente caldo consumerà di più, la pompa di calore, se deve produrre molto calore, consuma di più. Quindi si associa con una caldaia perché c'è il rischio che pochi giorni all'anno, magari molto freddi, in cui c'è tanta domanda di energia e poco calore nell'atmosfera, si debbano poi mettere delle pompe di calore gigantesche, no? Sì, certo, si contiene la taglia della pompa di calore con una piccola spesa in più, perché la caldaia e come condensazione comunque sono abbastanza economiche, si riesce a avere un fabbisogno, di soddisfare il fabbisogno energetico tutto l'anno. Questo è ideato soprattutto per ottenere l'ottimo economico piuttosto che l'ottimo energetico. E certo, si consumerà comunque un pochettino di più che con una sola pompa di calore molto grande, ma costa molto meno il sistema nel suo complesso. L'obiettivo qui è avere l'ottimo economico, non quello energetico, come dicevo. Ecco, e veniamo all'altra associazione invece, che con i pannelli fotovoltaici. Qui qual è il criterio? Il criterio qui anche è abbastanza semplice, perché oggi il fotovoltaico non gode di incentivi alla produzione come è stato in passato, quindi l'utente può trarre profitto dai pannelli evitando di acquistare energia dalla rete elettrica. Quindi la pompa di calore permette di aumentare considerevolmente l'autoconsumo. Avete anche un numero su questo, se ricordo? Sì, certo, abbiamo fatto recentemente RSE ha fatto degli studi, delle stime su questi impianti. Un impianto con fotovoltaico tradizionale ha un autoconsumo di circa il 20-30%, se si accoppia a questo impianto una pompa di calore si può arrivare facilmente al 60%, numeri che poi possono aumentare ancora se si usa anche un accumulo termico o elettrochimico. Certo, se una parte di energia elettrica viene accumulata in batteria, oppure lei diceva, ne parleremo, in accumulo termico. La famosa pompa di calore può andare nelle ore in cui c'è il sole, accumula acqua calda che poi può essere utilizzata anche durante la notte, per esempio, per riscaldare l'edificio, no? Un po' questo il criterio. Sì, certo, questo è il criterio, è quello proprio di accumulare quando si ha questa energia rinnovabile, che per sua natura ci può essere o non essere, quindi accumulare questo calore e disporne quando ne fa più comodo, in altre ore in cui questa energia non è disponibile. Ecco, questo fa anche capire che comunque questi sistemi sono un po' più complicati, no? Anche da gestire e da progettare. Sì, sono impianti più complessi, quindi in questo caso le logiche di funzionamento devono essere studiate attentamente, anche in questo caso, quindi il miglior consiglio che si può dare all'utente è di rivolgersi a progettisti installatori di provata esperienza. Senta, c'è qualcos'altro in arrivo per il futuro? Qualche altra associazione vincente che possiamo aspettarci a breve? Sì, ci sono ancora delle tecnologie che stanno emergendo già oggi, senza andare nel futuro, che sono magari pannelli fotovoltaici ibridi, quindi che producono sia energia elettrica che energia termica. Va bene, grazie Lorenzo Croci. Grazie a voi e buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, terza puntata dello speciale dedicato alla riqualificazione energetica degli edifici. Restate con noi.